insieme su i colori dell'anima. Buonasera, buonasera a tutti i radioascoltatori dei colori dell'anima. Siamo con voi per una nuova puntata questa sera con Francesco. Ciao Francesco. Ciao Rossella, eccoci. E con noi ci sono ancora due ospiti. Chi sono? Miriam e Danilo. Danilo lo conosciamo. Rigorosamente in diretta. Vale. Danilo lo conosciamo per le sue scalate famose con la bombola di ossigeno. Sì. E Miriam anche per le sue allucinazioni grazie alle foglie di coca, ormai la numero uno. E se vuoi ci puoi anche ancora raccontare le tue avventure. No. Quindi questa sera siamo una bella squadra in diretta e la nostra idea è di tenervi un po' compagnia per quest'ultima giornata, la penultima giornata di febbraio. Vi ricordiamo un po' i contatti, potete scriverci sulla pagina Facebook che si chiama Rossella virgola Francesco virgola Tiziana e Leandro Oneir, se vi ancora virgola Miriam e Danilo signori. Vabbè, e chi parla di noi? Vi promettiamo che rifaremo una pagina subito e ben presto, ecco, subito, ben presto. E, oppure potete anche chiamarci al numero di telefono 02 345 2656. O ancora volete mandare un SMS allo 0479 135564. Quindi fatevi... Ancora se volete una lettera Rubelgrado 120. Io pensavo al piccione viaggiatore, però. Cos'è San Gilles? Dove stiamo? No, fa troppo freddo per i piccioni. Va bene, insomma, l'idea è basta che si fanno sentire, poi i mezzi non sarà un problema. Bene, allora, che dite? Sveliamo un po' piano piano il tema della serata. Non lo so, o vogliamo mettere subito una canzone o introduciamo subito il tema. Tu che dici? Io sono curiosa, voglio il tema. Quel tema? Vabbè, siamo a febbraio. Gli Oscar? Gli Oscar? No. Sanremo? No. Finito. Non interessa a nessuno. Viaggio di nozze? No. Beh, allora ve lo dico io. Questa sera parliamo di carnevale. Ah, ecco perché Francesco ha la maschera. Ora ecco, capito. Adesso avete capito perché siamo venuti con i coriandoli. Per non farvi scordare le stelle filanti. Ma prima di addentrarci un po' nel tema, che poi un po' l'idea è di fare una piccola carrellata tra le usanze e le varie tradizioni, direi che ci sentiamo una canzone. Sì. Che ne dici? Miriam. La prima canzone è di Elian Elias, Brasil. E come mai abbiamo scelto questa canzone? E chi è Elian Elias? Chi è? Sentiamo. Elian Elias è una cantante sudamericana, ovvero brasiliana, che canta delle canzoni molto belle. Olè, quindi andiamo in Brasil. I colori dell'anima. E rieccoci in onda sui colori dell'anima. Abbiamo appena sentito una bella canzone brasiliana. Salutiamo tutti i nostri amici brasiliani di Rio de Janeiro che in questo momento sicuro stanno ballando ai ritmi della nostra radio. Ciao amici. No, stanno ballando al ritmo del carnevale di Rio de Janeiro. La samba, ma io l'ho messo per loro. Ah, ecco. Non l'ho richiesto, quindi. Una grande richiesta. Ma a proposito di grande richiesta, vi spieghiamo un po' i colori dell'anima, perché si chiama così questa trasmissione, che va in onda tutti i lunedì del mese. Il primo lunedì ci sono delle squadre diverse, questa sera è la nostra squadra. I colori dell'anima si chiama così perché l'idea è appunto di raccontare un po' i colori dell'essere umano, quale sfumature possono avere le emozioni in realtà. E questa sera si ricollega un po' al tema, Miriam, che dici tu? Certo, ne cercavamo uno di tema da raccontare e abbiamo pensato al carnevale. Quale festa ha maggiori colori del carnevale? Con tutte le sue sfaccettature, i suoi coriandoli, le sue fettuccine. Quindi, le fettuccine sono... da me si chiamano fettuccine, sarebbero le stelle filanti. Ah, le stelle filanti. Ma ecco. Non lo sapevo neanche. Siamo guardati negli occhi, le fettuccine ce l'hanno già. Ho un po' fame. E infatti, io pensavo una specialità. Ecco, ragazzi, tentiamo di non parlare di cibo almeno per almeno un minuto. Allora, quindi... Ma stasera li diamo tutti i colori. Tutti i colori, perché è vero. Questa sera sarà una serata piena di colori. E per i daltonici. E il carnevale, appunto, ricordiamo un po'. Che mi salutano. Ricordiamo che nasce nelle antiche tradizioni romane, in questi festeggiamenti che si usavano nell'antica Roma, in cui si faceva un uso anche molto abbondante di cibo, di vino, di festeggiamenti, oppure c'è chi lo ricollega agli antichi greci. Beh, comunque le origini sono molto, molto vecchie, però ecco, quello che arriva ai nostri giorni è il fatto, il perché il carnevale si continua ad essere celebrato, ed è anche un po' un'usanza cattolica soprattutto, perché ecco, questo carnevale quanto dura? 4-5 giorni, dal giovedì grasso fino al martedì grasso, e il martedì grasso è l'ultimo giorno che poi inizia la quaresima, quindi il mercoledì delle ceneri inizia il periodo quaresimale o quarantesimale, dipende come si voglia dire, e quindi i giorni precedenti si festeggia e si abbonda negli eccessi. L'origine della parola stessa è vale, carnevale, quindi addio alla carne, abboffiamoci ed esageriamo adesso, perché poi ci aspetta un periodo di digiuno. Questa è un po' l'idea che sta dietro. Stasera tutti alle macellerie di Sant'Eramo, ricordate. Abbuffatevi. Beh, non credo, poi. A parte le macellerie di Sant'Eramo, poi un'altra usanza del carnevale è che ci si traveste da Nilo, giusto? Esatto, allora diciamo, la domanda è una: perché a te carnevale si traveste? Perché? Per quale motivo? Perché? Perché non solo a carnevale, anche perché, ma è un altro discorso. Però, magari sarà l'oggetto di una nuova puntata. Esistono due, magari una che va in onda magari un po' più tardi di orario. Comunque, esistono due spiegazioni per il motivo per cui ci si traveste a carnevale. La prima è che durante i Saturnali, nell'antica Roma, quindi durante più o meno questo periodo, esisteva la tradizione di sovvertire l'ordine sociale. Quindi gli schiavi si mascheravano da uomini liberi, gli uomini liberi si mascheravano da schiavi. In questo modo, per questo breve periodo, ognuno si sentiva libero di fare quello che voleva. Erano anche tollerati moltissimo gli eccessi. Che noi non vogliamo sapere. Sì, questo sempre sarà per una puntata di un orario un po' più tardo, più avanti. L'altra idea, l'altra, diciamo, la teoria da cui deriva questa cosa di travestirsi, è che i romani indossavano in realtà le maschere dei propri defunti. In questo modo, diciamo, loro li invitavano a tornare nella vita terrena, quindi per, non so, un giorno, loro impersonando il defunto con questa maschera, facevano in modo che il defunto potesse rivivere la vita almeno per un giorno, quindi divertendosi, canti, balli, mangiando, e in cambio però chiedevano a questo defunto di benedire la terra, affinché la terra sia fertile per il prossimo raccolto. Quanta cultura, Danilo. È sì, vero, parla difficile. Sono emozionato per te. No, è interessante questa idea. Grazie. Io credo che scriverò un libro su questo. È bella l'idea dello schiavo, insomma, della possibilità di sentirsi. Sì, c'è sempre la tendenza italiana di ricorrere ai genitori, agli avi, per quando ci servono delle cose, quindi è una cosa che è rimasta, diciamo. Sì, continuiamo ad affondare nelle radici. Ma ci sono anche altre tradizioni, no? Ci sono anche altre tradizioni, e direi che un minuto è passato, quindi a parte gli scherzi, ecco, ci siamo chiesti cosa ci ricorda il carnevale tra di noi, sicuramente i dolci del periodo natalizio che si fanno magari in casa con mamma, con le nonne, con gli amici, è una delle parti più belle del carnevale. E quali dolci vi vengono in mente? Dicevamo prima, ovviamente, le chiacchiere. Sì, le chiacchiere. Le chiacchiere, che poi scopriremo anche perché si chiamano chiacchiere, ma appunto le chiacchiere sono questo dolce tipico di carnevale, che in realtà è fatto proprio a partire di elementi molto semplici, molto, ecco, non sono degli ingredienti particolarmente ricchi, ma molto poveri, che venivano fatte in abbondanza, proprio per quello si chiamano chiacchiere a quanto pare, perché le chiacchiere si fanno in abbondanza, così come a partire da pochi ingredienti si facevano tante chiacchiere, tanti dolci. Ma io direi che, visto che i nostri amici in studio hanno assaggiato queste chiacchiere deliziose della signora Liliana, è stato un onore. È stata una fortuna. È stata una nostra fortuna. Adesso proviamo a sentire Liliana. Sei in diretta? Pronto, Liliana? Pronto? Pronto, Liliana? Pronto? Liliana, ti consiglio di diminuire il volume della radio perché c'è il ritorno. Ok, ok. Grazie. Va bene. Se non funziona, prova ad aprire la finestra. E metti fuori Margherita. Che faccio? Urlo dalla finestra. Mi sentirete? Sì, sì, sì, adesso. Ti sentiamo. Ecco, con noi l'inventrice delle chiacchiere. Attenzione. Signora delle Liliana. Ottime chiacchiere. Casantero. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera signora Liliana. Grazie di essere qui. Ciao. Con noi in radio. E quindi ecco, parliamo di queste chiacchiere, perché queste chiacchiere sono state la nostra colazione dopo pranzo, dopo cena, dell'ultima veramente? Settimana. Sì, sì, sì. Sì, le mattine erano sempre deliziose. Sono piaciute? Finite. Buonissimo, per quello ci abbiamo chiamato, perché volevamo sapere un po' la ricetta e qualche storia. E il segreto? Va bene, che devo dire? Ecco. Le chiacchiere... Proprio è un tipico proprio dolce di carnevale qui a Sant'Eramo, ma non solo a Sant'Eramo, in tutta Italia, solo che ognuno usa un nome diverso, chi le chiama crostole, chi le chiama in altri modi, non so, noi le chiamiamo chiacchiere, è perché mentre si chiacchiera, si balla, si ride, si sgranocchiano queste chiacchiere che tra l'altro poi fanno il rumore chiacchierino, un suono proprio onomatopeutico. Ah, vedi, un'altra... Più o meno. Spiegazione. Le crostole, io non l'ho mai sentito. Va bene, è saltata questa parola. e quindi un dolce molto tipico, buono e appetitoso. Chi è goloso non smette mai più di mangiarli. Anche facile a mangiarli da fare. Pronto? Quindi dicevamo, è facile da mangiarle perché sono buone, molto buone, ma da farle come si fanno le chiacchiere? No, da farle, io non sono una pasticcera, non sono una cuoca, se le so fare io sicuramente saranno proprio semplici. Allora Francesco, ascolta bene la ricetta perché il tuo momento finalmente è arrivato. Infatti, siete pronti così? Sì, penna in mano. Avete tempo, oggi e domani per prepararle, perché si fanno entro domani, dopodiché basta perché inizia la quaresima e di chiacchiere non ce ne vogliono più. Silenzio, abbiamo ancora 3 ore, no? Prima no, di... ok, prima quindi avete esatto. Tempo. Allora, Miriam, scrive. Va bene. Danilo, prendi appunti. Allora, prendete appunti e iniziate a scrivere. Quindi, 500 grammi di farina bianca. Mm-hmm. Poi 50 grammi di burro a temperatura ambiente, 3 uova, un pizzico di sale, 70 grammi di zucchero, 50 millilitri di grappa, o si può mettere un limoncello, cioè l'importante è che sia un liquore forte, insomma, molto alcolico. Quanto di grappa? Il tutto lo si deve impastare. Bene, diventa un impasto abbastanza morbido. E poi lo si lascia riposare per una mezz'ora, in modo che perde la sua elasticità. Mm. Dopo un po' si stendono con uno strato sottile, chiusa, per esempio io uso la macchinetta Imperia perché non sono brava a stenderla a mano, certo. Come facevano i nostri genitori. Sì. La macchinetta bisogna più usare l'Imperia al secondo livello, quello uso io. E poi si friggono in olio bollente per pochissimo tempo, giusto il tempo che diventino dorate. Senti Liliana, ma il burro o lo strutto? Perché io ho sentito, ecco, ho chiesto ad alcune amiche del mio paese e loro dicevano, ah no, con lo strutto. Forse nei tempi antichi si usava lo strutto e adesso... Esattamente. Ecco. Uh-huh. Adesso si usa. Praticamente si usava lo strutto, poi il burro insomma è diventato un alimento più nobile. Sì. Ecco, e quindi... sì, un'alternativa più facile da trovare anche. Sì, sì, più facile da trovare, più facile da usarlo. E comunque devo dire che sono abbastanza buone e facili da farle. Ovviamente per chi è distratto, io sono una cuoca distratta. Ci vuole poco perché prendano colore e diventano carbonizzate, quindi bisogna stare attenti e non farsi distrarre. Certo, e poi bisogna stare anche molto attenti perché con l'olio bollente non si scherza. Non bevete la grappa, prima l'ho usata solo per il dolce. Come? No, dicevo, possiamo sponsorizzare la tua ricetta anche online, non su Facebook, sul nostro gruppo. Sì, sì, sì. Chi vuole può contattare Liliana a tutte le ore. La chiameremo la ricetta delle chiacchiere della signora Liliana. Ovviamente, oh, se ce ne vuoi mandare due chiletti, non è che... Sì, sarebbero... Guardiamo Rubelgrad 120, San Gil. Ho dimenticato una cosa. Dopo averle fritte, bisogna cospargerle di zucchero a velo. Devono avere un colore bianco. Quindi, mentre si chiacchiera... Quindi si mangia e ci si sporca, perché questi frantumi sporcano dappertutto e anche il bianco, insomma ti imbianca anche il vestito, la maglia, i pantaloni. Cioè è un momento, è un momento festivo, quindi va bene così. Ma invece per conservarle, come si conservano, Liliana? Quanto tempo resistono le chiacchiere? Dipende da quanta fame hai. Resistono 2 o 3 giorni se avete il coraggio di lasciarle, perché una volta che uno inizia a mangiarle le finisce. È vero pure questo. No, non sono dei dolci da conservarsi, insomma, poi perdono la fragranza, diciamo, ecco. Ok, perfetto. Grazie mille. Anche io ho fame. Sì, no, abbiamo tutti fame. Senta, signora Liliana, grazie per questa ricetta che ci arriva direttamente da Santeramo, in Puglia. E io direi che dobbiamo salutare tutti gli ascoltatori. Quelli che ci ascoltano. Dobbiamo ascoltare tutti i santermani. Tutti e sette. Dobbiamo tutta la famiglia sette, tutta la mia famiglia. Ciao mamma. Poi salutiamo pure zia Tina, zia Emilio. Approfittiamo. Ciao mamma. Conversazione in diretta. Bene. Comunque bravi, è una bellissima trasmissione, molto simpatica. E noi che siamo qui a Santeramo ci sentiamo un po' vicini a voi. Grazie a lei che ci dà queste perle di saggezza, può fare le chiacchiere, che ci manda le chiacchiere, così addolcisce le nostre giornate ogni tanto grigie. Vorrei tanto mandarvele, vorrei rimandarvele così. No, vabbè, con le chiacchiere la prossima festività di Pasqua, magari hai qualche altra specialità per Pasqua. Sì, a Pasqua mamma racconta come si fanno le scarcelle. Ah, benissimo. Benissimo, quello sì, potrebbe andare bene. Ok, grazie mille Liliana che sei stata con noi in diretta. Buona serata e a presto allora. Un bacione a tutti quanti e buon lavoro ancora. Ciao. Grazie, a presto. Tanti saluti da tutta la mia famiglia che vi sta ascoltando. Perfetto, ciao a tutti, mille. Grazie. Ciao a tutti. Io intanto ho una correzione da Foggia. C'è Rita che ci dice che... Attenzione, arriva la correzione da Foggia. Sì, infatti, Aspettita. Che da buona maestra ci corregge. Dice che in realtà il carnevale è un periodo molto più lungo che inizia il 17 gennaio, festività di Sant'Antonio Abate. E termina il martedì prima delle ceneri, che quest'anno appunto cade il 1 marzo. E si festeggiano solo gli ultimi giorni con varie sfilate. Concordo, perché anche nella tradizione locale, qui in Belgio, iniziamo a festeggiare molto precedentemente, tre settimane addirittura prima della sfilata. Esatto. Ma possiamo rievocare qualche ricordo dell'infanzia, voi che dite? Qualche ricordo dell'infanzia? Sì, infatti ero curioso di sapere qual era la maschera preferita dalla signora Liliana, ma posso chiedere anche alla figlia a questo punto. La mia maschera preferita? Ci devo pensare. Vediamo, la mia prima maschera è stata quella di Lady Loveline. Penso che fosse una principessa, ero tutta vestita di rosa e mia madre mi metteva il rossetto, io rimanevo impalata per ore perché avevo paura di rovinare il rossetto e quindi stavo zitta. Era l'unico modo per farti stare zitta. No, ero sempre zitta e io ero una di quelle. Vabbè, Miriam pubblicherà le foto su Facebook. Quindi accorrete numerosi sulla pagina. Oppure un'altra maschera, perché a Santeramo c'è una grande tradizione di carnevale e quest'anno tra l'altro... A Sant'Eramo si festeggia il 50° anno di sfilate del carnevale dell'oratorio Salesiani di Sant'Eramo. Ogni anno quindi c'è una sfilata a cui partecipano le scuole, le organizzazioni, le parrocchie, centinaia e centinaia di bambini, giovani e adulti organizzano appunto gruppi mascherati. Ogni gruppo ha il proprio tema e c'è una sorta di sfida tra i vari gruppi. Mm-hmm. A parte appunto durante la sfilata ci sono le coreografie, ma poi a termine della sfilata c'è la sfida dei balletti. Io personalmente ho partecipato vari anni, proprio tante maschere, adesso non ricordo. Mi ricordo la prima è stata vestita da topo. Io e mia sorella eravamo due topolini. Topo Gigio. Del gatto con gli stivali, ma poi ce ne sono tantissime di maschere. Mi ricordo una volta ci siamo vestiti da grandi orologi, oppure la migliore è quella di mia sorella che un anno si è vestita da struzzo. Ah, bella, io quella foto da struzzo. È tuttora vestita. Non c'è mai più il costume, no, non ci crediamo. La corre sempre come uno struzzo. Non ci crediamo, salutiamo Margherita che sappiamo che ci ascolta. Sì, che ci ascolta. E questa è stata la tradizione di Sant'Eramo. Come non ricordare anche Putignano, che quest'anno siamo giunti alla 623esima edizione, attenzione. Abbiamo fatto un po' una sfilata dei carnevali in Puglia, vabbè, sì. Grazie per l'approfondimento su Sant'Eramo. Bene, io direi adesso di ascoltare un'altra canzone, una canzone che ci parla di, non lo so, di prendere la vita così com'è. Di prendere la vita così com'è e quindi? Max Gazzè, a voi. I colori dell'anima. Ed eccoci ritrovati. E quindi adesso vogliamo dare qualche saluto. Salutiamo Simona che ci sta ascoltando da qui da Bruxelles. Salutiamo anche Rita, Gino, Maurizio. Salutiamo Davide e salutiamo anche il piccolo Sante, Piero, Margherita, Emilio e Chiupù. Olè, grazie a tutti. Però ho una cosa importante da dire: il Bari sta vincendo 1-0. Così. Altri aggiornamenti, Danilo? Sì, la Fiorentina conduce 2-0 sul Torino, quindi probabilmente al Fantacalcio pareggio questa giornata. Ecco, io direi che questa benissimo. Strategia di includere l'aggiornamento calcistico mi piace. Abbiamo anche un nostro inviato allo stadio San Nicola di Bari, quindi che tra un po' chiameremo. Se siamo fortunati possiamo metterci in contatto con lui. Olè. Ma torniamo al nostro tema questa sera, per chi si è appena collegato, parliamo di carnevale, facciamo un po' una piccola sfilata tra le tradizioni, gli usi, le culture nei diversi carnevali italiani e vedremo anche un po' fuori dall'Italia. Quindi, insomma, leggendo un po' tra i vari carnevali, oltre appunto abbiamo nominato prima il carnevale pugliese di Sant'Eramo, Putignano, che è uno dei più grandi, ma ecco, oltre al carnevale appunto di Viareggio, che è molto conosciuto ed è uno dei più grandi, un grosso carnevale della Sicilia occidentale è il carnevale di Sciacca, specifico della Sicilia occidentale, perché nella Sicilia orientale c'è il carnevale di Acireale. Però appunto questo di Sciacca è uno dei maggiori carnevali italiani e abbiamo la fortuna di avere con noi in diretta al telefono una esperta del carnevale di Sciacca. Pronto Chiara, sei con noi? Ciao Rossella, ciao a tutti gli ascoltatori. Ciao Chiara. Ciao Chiara. Ciao. Ecco. Ciao. Dicevo, ecco, che il carnevale di Sciacca è uno dei carnevali più grandi in Italia e appunto anche più conosciuti, e che per fortuna abbiamo un'esperta, una sciacchitana, come si dice in dialetto. Una sciaccosa. Una sciccosa. Meglio di saccente. Esatto. Che ci racconta un po' della questa tradizione, ecco, molto, molto, molto vecchia ed è anche molto, molto divertente. Sì, di sicuro quello di Sciacca è il carnevale più coinvolgente della Sicilia. Su quello non c'è dubbio. C'è qualche tradizione particolare perché è famoso il carnevale di Sciacca, qualche maschera? Allora, il carnevale di Sciacca, la maschera principale è Peppe Nappa, Quindi il giovedì Peppe Nappa riceve le chiavi del comune dal sindaco, direttamente dal sindaco, e si inizia la festa. Peppe Nappa. Poi invece Nappa Peppe Nappa. Nappa. È una maschera famosa sulla quale torneremo. Sì, sì, è la maschera principale, sì. E poi invece il martedì santo, quindi l'ultimo giorno, il carnevale si conclude con il rogo del Peppe Nappa. Mm-hmm. Quindi ogni anno viene costruito questo carro e poi viene bruciato alla fine della festa. Quindi vengono costruiti poi, sì, dei carri. Sì, sì, raccontaci. Sì, vengono costruiti tanti carri, però ogni anno viene costruito sempre, diciamo bene o male, lo stesso, che è quello del Peppe Nappa, che è il simbolo. E poi invece ci sono tanti altri carri basati ad esempio sulla satira politica sia di Sciac sia a livello nazionale. Mm-hmm. Ma senti, ogni carro ha un tema. Ha un tema, e questi carri sono molto grandi, per capirci. Io leggevo che arrivano ad essere alti quanto un edificio di 5 piani. 1000. Quindi sono sì, perché addirittura spesso, siccome sono talmente alti, vengono al momento del passaggio, perché sfilano all'interno del centro di Sciac, quindi quando sono molto alti addirittura alzano i fili elettrici collegati da una casa all'altra per poterli passare, quindi sì, sono abbastanza alti. Senti, e come di cosa sono fatti? Sono di cartapesta questi carri? Sì, perché hanno la struttura in ferro. E poi vengono fatti tanti strati di cartapesta e poi vengono colorati. A questo ci pensano comunque i modellatori. Quindi sono proprio dei ceramichisti che prima fanno il bozzetto piccolino e poi li modellano per come devono venire alla fine. Quindi c'è molta mano d'opera, c'è un grande lavoro, perché immagino per creare uno di... Non so quanti carri fanno, ma ecco, per far creare tutti quei carri c'è una preparazione che immagino sia molto lunga. Sì, ogni carro ha comunque, vengono preparati prima in dei piccoli garage, quindi in base al bozzetto piccolino che il modellatore ha predisposto, vengono fatti singoli pezzi in garage piccolini e poi il giovedì e il venerdì vengono montati nelle vie. Perché non ci sarebbe materialmente lo spazio per poterli costruire dentro al garage. Quindi poi i modellatori magari alla fine si ritrovano con qualche problemino di dimensioni, devono fare i ritocchi dell'ultimo momento, è molto molto complicato, ma i carri già vengono iniziati, la preparazione inizia già a novembre all'interno dei garage. E vengono coinvolte tantissime persone, perché immaginate tutti questi strati di cartapesta, quindi prima c'è il passaggio della colla, poi vengono attaccati alla struttura in ferro e poi alla fine vengono colorati. Questi carri sono in movimento, quindi poi devono essere preparati tutti i movimenti all'interno per risultare poi completi, belli colorati e tutti in movimento. Sì, sì, quindi ci vuole anche una conoscenza molto specifica, tecnica nel fare questi carri. Sì, tra l'altro leggevo che anche l'Istituto d'Arte di Sciacca collabora durante il carnevale e si sta appunto arricchendo di conoscenze artigianali. Che... Sì, fortunatamente a Sciacca per modellatori e ceramichisti ce n'è in abbondanza. Sì, perché la ceramica, ecco, è uno dei punti forti della città. Senti Chiara, e tu hai mai partecipato alla costruzione di questo carro, che poi tra l'altro mi raccontavi che organizzano ogni carro ha un tema, ma ha anche un balletto, un inno, una sfilata, sì. Hai fatto parte, sì, dici. Quando ero piccola sì, mio papà, essendo che anche lui è sciacchitano, mi portava all'interno di questi garage a passare colla nei fogli di giornale e poi invece ho partecipato quando ero più piccola per quasi 10 anni consecutivi come gruppo a terra, perché ogni carro poi ha un gruppo, prima erano più numerosi, però ogni carro ha un gruppo a terra che quindi anche loro devono preparare i balletti sia dell'inno sia delle canzonette. Senti, a terra perché c'è pure quello sul carro, perché dice gruppo a terra. Sì, ci sono i ragazzi sopra il carro. Ad esempio sopra il carro di Peppe Nappa, quando sfila nelle città, distribuiscono salsiccia, vino, molto coinvolgente anche per questo. Allora andiamo tutti a Sciacca il prossimo anno. Io direi di sì. Ecco. Sì, venite tutti, vi aspettiamo tutti al Carnevale. Certo, di questo carro di Pepe Napa attrae molta gente. Soprattutto a quest'ora. A quest'ora è molto interessante. Senti, ma... quest'anno tu sei riuscita a vedere il carnevale? Ci sei stata? Qual è il tuo carro preferito? Perché c'è anche una competizione, mi raccontavi. Sì, perché poi in realtà ci sono dei giudici che giudicano sia per il carro, sia per i movimenti, sia per i balletti, sia per gli inni, qual è il carro migliore, e poi viene decretato il vincitore la settimana successiva alla conclusione del carnevale. Io li ho visti tutti, quest'anno ce ne sei in gara, perché il Pepe Nappa non è mai in gara essendo la maschera principale. Sì, la mascotte. Gli altri sei, il più bello ad esempio è quello proprio su, si chiama Raggi di Luce, perché è sul Movimento 5 Stelle, quindi c'è Beppe Grillo, la Raggi, il sindaco di Roma, quindi è proprio satira nazionale, ed è molto bello perché ha molti movimenti, anche i costumi sono molto particolare e molto bello. Quindi c'è una colonna sonora per ogni carro anche. Certo. Sì, ogni carro ha sia l'inno principale, che e su quest'inno balla il gruppo a terra, sia le canzonette, perché ogni carro ha la propria recita. Canzoni sicure. Quindi quando sale sul palco il gruppo, sulle varie canzonette che sono già state stabilite sempre in dialetto siciliano dagli autori, poi il gruppo sul palco balla, si esibisce sulla base di queste canzonette. Senti, che bello, ci stai facendo un po' a partecipare, tra l'altro Sciacca, per chi non la conoscesse, ecco, il carnevale, la sfilata viene lungo il centro e poi lungo la piazza che si affaccia sul mare, quindi è uno spettacolo decisamente particolare. Ma ecco, l'ultima domanda mi viene voglia di farti, Chiara. Perché ecco, tu mi raccontavi che il carnevale per i sciacchitani, per la gente di Sciacca, è molto importante, è molto sentito. Come mai? Proprio perché c'è questa preparazione che unisce molto le persone, che perché così sentito? Sono orgogliosi, ecco, ce l'hanno nel sangue. Ecco. Tanto della mano d'opera e dell'impegno che ci mettono tutti, dal più grande al bambino più piccolo che ci partecipa, perché poi ci sono bambini già 3 anni che fanno parte del gruppo a terra. Perché essendo che ce l'hanno proprio nel sangue questo carnevale, già i genitori che partecipano ad esempio alla realizzazione del carro poi fanno partecipare i propri figli nel gruppo a terra. Certo. Quindi in realtà sono coinvolte tutte le generazioni. Bene, bene. Quindi, sì, capito. Quindi è un modo più inclusivo così di condividere questa passione in questo momento di celebrazione. Siamo proprio anche partecipi. Perché la preparazione praticamente dura tutto l'anno. Perché a che finisce il carnevale, a che già si prepara il prossimo carro per il prossimo anno. E certo, si preparano in tempo. Va bene, allora senti, io direi che è il momento di sentirci proprio appunto l'inno di Pepe Nappa, che è l'inno del carnevale, così lo facciamo conoscere a tutti coloro che ci ascoltano dal Belgio, dalla Puglia, da tutta l'Italia. E ti ringraziamo tanto, Chiara, per averci così raccontato un po' il carnevale Sciacca. Ti auguriamo di divertirti domani sera, perché domani sera, ecco, bruceranno Pepe Nappa per concludere il carnevale. E magari, ecco, chissà, saremo anche noi lì l'anno prossimo, Chi lo sa cosa potrebbe succedere l'anno prossimo? Chi lo sa, va bene, dai. Grazie mille, Chiara, un bacio. Grazie, Chiara. Un bacio, ciao. Ciao. E io direi che ci sentiamo subito. Pepe Nappa. I colori dell'anima. Eccoci in onda con i colori dell'anima. Ci siamo appena sentiti questa bella canzone di Sciacca di Pepe Nappa. Coinvolgente. Ballando. Sì, io sbraitavo e cantavo perché, ecco, un po' la conosco questa canzone. Ma Danilo, c'ha un aggiornamento, freme. Sì, sempre la nostra ascoltatrice da Foggia ci tiene a precisare. Ascoltatrice da Foggia? Mia madre. Ciao mamma di Danilo. Ciao. Ci tiene a precisare che la maschera foggiana per eccellenza è quella di Ursinus Tagnarill, il quale vestiva sempre con un abito pieno di tappi metallici tintinnanti. accompagnava i suoi saltelli con uno strumento ritmico tradizionale che sul Gargano chiamano sciscolo, che sarebbe una mazza messa a mo' di violino sulla quale se ne strofinava un'altra come se fosse un archetto, provvista di scanalature, e sulla quale erano inchiodati tappi o coperchi metallici. Alla fine di questo carnevale che si faceva tanti anni fa a Foggia, questo ursino stagnerile si lanciava, grazie al supporto dei vigili del fuoco, da un'altezza di 30 metri, faceva una specie di volo. Spettacolo. Sempre cose molto, insomma, facili a Foggia. grazie è bello per questa bellissima. Per l'anno prossimo lo facciamo anche a Bruxelles, faremo stagnerile. Ci lanciamo. Sicuramente, dobbiamo avvertire i carabinieri, i pompieri e tutti quanti. Quei tempi che vanno, poi figurati. Ma ecco, a proposito appunto di condizioni locali, ecco, parliamo di questi carnevali, ma non abbiamo menzionato alcun carnevale fino adesso che prende spunto dalle tradizioni belga. Sì. Che carnevali abbiamo qui in Belgio? Infatti, non tutti sanno che il carnevale di Binche è il carnevale più celebre in Belgio, ma addirittura dal 2003 fa parte dell'UNESCO. E chi sono quindi i personaggi principali? Sono chiamati Gilles, che vi invito tutti a cercare su Google Immagini, perché a me personalmente fanno molto ridere, spero che i belgi non si offendano, però. No, vabbè, perché dai, l'idea del carnevale no, è ridere. No, sono maschere di cera e un grande pennacchio che personalmente mi fa pensare alle galline, però probabilmente non c'entra niente, però mi piace pensare così. E questi Gilles in pratica danzano sull'area di musiche tradizionali di carnevale, musiche suonate da una piccola fanfara composta da ottoni, tamburi e una gran cassa. Ma quello che a me ha attirato l'attenzione sono le regole ferree a cui i Gilles di Binche devono rispettare. In pratica non devono spostarsi senza l'accompagnamento come minimo di un suonatore di tamburo. Quindi ogni volta che escono per strada fanno un passo, sempre tamburo. Tamburo, quindi immagino che l'udito non sarà tanto sviluppato. Poveri timpani. Sì. Mai, mai sedersi in pubblico, neanche per scherzo, neanche se c'è un tuo parente che si sta sbraitando, no. Non avvicinarsi mai al pubblico e soprattutto sedersi, sempre in piedi, col tamburo dietro. Mai essere ubriachi, anche se... In Belgio è possibile. In Belgio è un po' difficile, dubito. Anche tutto il carnevale, insomma. Sì. Ed essere obbligatoriamente originari di Binche. Tra l'altro. E tra altri personaggi ci sono sempre Arlecchino, il contadino, che sono... Fa parte, è un gruppo che è composto dai bambini del collegio di Notre Dame, e i Pierrot, i bambini del Petit Collège. Ma la nostra ascoltatrice, radioascoltatrice, mamma di Danilo, nonché signora Rita. Aveva ragione, perché a Binche la preparazione avviene a partire dalla terza e quarta domenica prima di Carnevale, dove ogni membro di questa società carnevalesca deve calzare zoccoli di legno, porta l'apertinai, è un cinturone di sonagli, e il ramon, che non è spagnolo, ma forse è origine spagnola, ma è un canestro. Quindi mi invitiamo tutti ad andare a Binche, anche noi. Sì, che è qua vicino, tra l'altro, ci autoinvitiamo perché non siamo mai riusciti e abbiamo scoperto che c'è un carnevale così famoso. E dovremmo tentare in tutti i modi di corrompere i Gilles offrendogli birra, suonandogli il tamburo in testa, oppure... e li facciamo sedere, dobbiamo provare a farli sedere. Offrendogli una sedia, qualsiasi cosa. Vediamo se ci riusciamo, questa sarà la nostra iniziativa per l'anno prossimo. Abbiamo un piano. Che a Binche. Sì. O Banche. Senti, Danilo, invece anche tu avevi una bella storia, un po' più triste, diciamo, passiamo dai polletti di Binche, no, perché... invece ha una storia, un momento un po' più... Momento triste. Momento emozionante. Ecco, allora, la storia di oggi in realtà è un fatto di cronaca successo a Carnevale. Siamo nella provincia di Lucca e questa è la storia del bandito in maschera e tuta da lavoro. Tratto dalle cronache di Lucca in diretta. Il bandito in maschera e tuta da lavoro torna a colpire, ma, ancora una volta, fallisce miseramente il colpo. Nel mirino del rapinatore timido e pasticcione è finita la filiale del Monte dei Paschi di Siena di Alto Pascio. Poco dopo le 11 del 25 di marzo, il malvivente è entrato nella banca, mostrando una pistola giocattolo ai dipendenti. però, quando si è avvicinato al bancone, invece delle minacce ha usato la cortesia. «Scusate», ha detto in un italiano senza inflessioni, «mi servirebbero i soldi». Il bancario a cui l'uomo si è rivolto ha colto tutta la sua titubanza e si è giustificato: «Ci dispiace veramente, ma le casse sono chiuse a quest'ora, non abbiamo soldi da darle». A quel punto il rapinatore si è congedato: «Se mi aprite la porta, me ne vado». Un triste momento, ma una storia vera, una storia di cronaca, che quando ce l'hai detto, cioè veramente, dovevamo condividerla con chi ci ascoltava. Più da Mercoledì delle Ceneri che da Carnevale, però. Quindi salutiamo questo simpatico burlone, aspirante rapinatore. Gli amici di Alto Pascio che ci seguono, numerosi. Esatto, soprattutto loro. Ciao amici di Alto Pascio. Ma oltre agli amici di Alto Pascio abbiamo forse qualche amico che è al di là del continente europeo, no Miriam? Però prima di arrivare al continente europeo volevo dare un altro aggiornamento. Olè, il Bari vince 2-0. Siccome insomma è importante dirlo. Io invece vi porto in Africa, al carnevale più importante dell'Africa, della Guinea-Bissau. La Guinea-Bissau è uno dei paesi più poveri e malandati del continente africano. Tuttavia, durante i giorni del carnevale, le strade polverose e solitamente deserte si riempiono di gente gioiosa e festosa che viene appunto da tutti i villaggi del paese. Ci sono tamburi, balli scatenati, sfilate in maschera e fiumi di birra. E in Guinea tutti gli anni appunto la gente si prepara e organizza questa grande sfilata a cui partecipano bambini, giovani e adulti. Cominciano i bambini vestendosi con abiti molto molto umili e poi gli uomini e le donne vestendosi con delle grosse maschere che richiamano animali totemici o divinità mitologiche e comunque figure mostruose. Uno dopo l'altro appunto sfilano i simboli multiformi del sincretismo tra le religioni animiste e le tradizioni cristiane, importate ovviamente dai portoghesi durante gli anni delle colonie. A chiudere i cortei ci sono le donne danzatrici di gumbe, sono vestite con gonnelline di rafia, perline luccicanti e noci di cocco appoggiati sul seno. Fanno una danza molto sensuale e davanti appunto agli occhi meravigliati di tutti i bimbi. Alla fine di questa sfilata c'è la premiazione della maschera più famosa. Cosa ci interessa sapere? Cosa mangiano? E sarebbe lo jollof o yolof rice, che sarebbe un capolavoro della cucina della Guinea-Bissau, quindi prendete nota perché potrebbe essere un nostro prossimo viaggio. E ho già visto i voli da Bruxelles, ci sono e conviene. A Bissau. Metto come uno di fame. È sotto il Senegal. Intanto sentiamo come sottofondo Hakuna Matata, dove ci riporta alla savana del Re Leone. Sì, andiamo con Hakuna Matata allora. Ok. I colori dell'anima. Ho sentito questa bella momentino di Hakuna Matata. Torniamo nel continente europeo. Ritorniamo perché purtroppo sono già le 10:05. Il tempo vola, soprattutto quando si è in bella compagnia e quando si parla di... Vorremmo fare il Bissau, ma purtroppo... non è possibile. I temi curiosi. Ma una domanda a bruciapelo. Da che cosa vi vestivate? Tu, Miriam, ci hai detto. Io l'ho già detto, tocca a Danilo. Da Tex Willer. Olè, Tex Willer, ma guè, mabbu. E tu, Francesco? Io dal moschettiere. Olè. D'Artagnan. Io mi vestivo da ballerina, quindi... Oh, che carino. Volevo condividerlo con voi. Ma ecco, è arrivato il momento di definire il colore della puntata, che è il colore del carnevale. Abbiamo detto che il carnevale è pieno di colori, però dobbiamo trovare un colore sul quale concordiamo tutti. Senti, ma Vince ha qualche colore particolare? Vince, dalle immagini vedo un rosso, bianco... Quel fa il rosa. È verdone. È verdone. No, ma io ci tengo a dire il mio colore perché... Venga, Francesco. E venga, finalmente Francesco. Posso partecipare al colore. E io ho scelto il bianco. Il bianco? Attenzione! Attenzione! Io lo so. Perché? Sentiamo. Perché racchiude tutti i colori. No, perché... Quando penso al bianco penso a una carta totalmente vuota dove ognuno può scegliere di riempirla con i propri con le proprie maschere, con i propri sogni, con la propria fantasia. Quindi diamo sfogo alla fantasia e disegniamo e coloriamo su un foglio bianco. Bravo Francesco! Oh, applausi, bravo, grandi bravo, applausi. Ispirato. Grazie profondità nel mondo della serata. Grazie di averci seguito a tutti e vi salutiamo, vi aspettiamo lunedì prossimo. Grazie Danilo. Rigorosamente in diretta. Olè, grazie certo. Danilo, Miriam e Francesco. E Rossella. Olè, grazie a tutti voi e buona serata. E chiudiamo con una dedica speciale a tutti i siciliani, i sciacchitani e a tutti gli isolani. Ale. Okay. E i guineani. E i guineani, africani e... E menfitani. Olè. E Lido Fiori anche soprattutto. Va buono. Invitiamo tutti ad andare in Sicilia per carnevale e per l'estate. Tinturia.